Capuano e Pierluigi Pardo. Two goals, very difficult to accept, a big frustration to accept, because it's like feel that my work was betrayed, if it's the right word. Murillo podría venir al Madrid. Pues como le digo, el futuro nadie lo puede prever, pero si me dice ahora mismo, pues le tengo que decir que no, porque tenemos a Rafa Benítez, que lo meditamos muy bien como el entrenador capaz, digamos, de solucionar un problema que tenía. Jose's been linked with an immediate return. If they were to make a change at Old Trafford, could you see Jose Mourinho as the next Manchester United manager? I'm afraid of no games. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Laccorte in regia, carissimo Pier, ciao. Come va? Bene, c'è un fantasma che si aggira per l'Europa, non so se l'hai sentito. Il primo era Mourinho, la dichiarazione di rottura con i giocatori del Chelsea, traditori. Poi c'era Perez, che non più tardi di 4-5 giorni fa ha detto no, Mourinho non torna, ci teniamo Benitez, che non è il problema ma la soluzione del problema. E invece c'è qualche novità, adesso la raccontiamo. E poi c'era ieri sera, insomma, gli inglesi sono impazziti a quest'idea dell'esonero di Van Gaal per far arrivare subito Mourinho al Manchester United. Insomma, dove l'avete avvistato voi l'ultima volta il fantasma di Mourinho? Ma da qualche parte sull'Atlantico probabilmente, o dalle parti di Albufeira o di Lagos dell'Algarve, no, o di Setúbal. È chiaro che insomma Mourinho è troppo grande, troppo importante, troppo tutto per poter pensare che non rientri negli appetiti, nelle speranze, nelle speculazioni. In più c'è questa suggestione appunto di un Van Gaal in grande difficoltà, e quindi insomma basta Van Gaal e Benitez ovviamente che hanno difficoltà, e quindi insomma non è difficile fare 2+2, però insomma, io credo che tutte le ipotesi sono ipotesi aperte e possibili, perché stiamo parlando di top club. È più difficile, come dicevamo l'altro giorno con Paolo Condò, poter sognare di riavere Mourinho qui in Italia. Sì, noi continuiamo a sognare, ma restiamo lì. Pensa che lo spirito di José potrebbe reincarnarsi in tempo per la sfida contro il Chelsea del 28 dicembre, quindi praticamente dopodomani. Manchester United-Chelsea sarebbe meraviglioso, ma potrebbe anche reincarnarsi sulla panchina di Benitez, perché la voce oggi sta prendendo consistenza a Madrid. Benitez sarebbe a un passo dall'esonero, quindi non mangerebbe nemmeno il panettone o quello che si mangia in Spagna, e arriverebbe subito Mourinho. Aspetta che saluto anche Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi. Buongiorno o buon dia, visto che siamo molto portoghesi in questo momento. Hai avvistato qualcosa tu di Mourinho? No, guarda, io mi trovo dall'altro lato dell'Europa, lui sta dalla parte di Setúbal, io sono verso il Mar Baltico in questo momento, quindi siamo molto lontani. Però insomma, aleggia, come tu dicevi, la data, una data limite, e questa è il 28 dicembre. Io da quello che so c'è il board del Manchester United, perché dobbiamo fare conto di una cosa, che mentre in Italia e al Real Madrid, se vogliamo anche al Paris Saint Germain, c'è un uomo solo al comando, in Inghilterra non sempre è così, non sempre c'è soltanto un uomo al comando. Il board del Manchester United è piuttosto diviso, è una divisione insomma comunque sia semplice, che porterà via pochi giorni, tra chi vuole Van Gaal via subito e chi invece, ed ora sta vincendo in questo momento, vuole dargli almeno altre due partite, cioè quella fuori con lo Stoke e quella con il Chelsea per entrare. Peraltro Mourinho, in questo caso secondo me non si può dubitare, con molto fair play ha detto: io finché voi non prendete una decisione, il contatto c'è stato ovvio, sì, ma finché non prendete una decisione su Van Gaal io non voglio parlare di nulla, perché Van Gaal è stato quello che in un certo senso gli ha impostato il futuro, perché se Robson è chi l'aveva scelto all'inizio allo Sporting, Van Gaal però è chi se lo tenne dopo Robson al Barcellona, dicendo: mi potete sostituire tutti, ma il portoghese io voglio che rimanga, perché è l'unico che mi dice le cose come sta. Per cui lui farebbe forse anche a meno per, da un lato, di rientrare prima del Chelsea, però il board è molto indeciso in questo però momento. Se proprio deve, Pierre, almeno abbiamo un senso in queste vacanze di Natale, pensa Manchester United Chelsea lunedì, e noi lunedì siamo in onda, in diretta, quindi sì. Potremmo parlarne, raccontarlo. Non so se hai seguito ieri sera il giallo del tweet di Trevor Sinclair. No, ex centrocampista del Manchester City, oggi valente collaboratore della BBC, la BBC, sì. Non Radio 24. Insomma, lui ieri sera a un certo punto twitta: Van Gaal esonerato, sta arrivando Mourinho. E questa cosa fa il giro del mondo per due ore, anche se lui mezz'ora dopo aveva scritto: scusate, ho fatto l'errore di un ragazzino, ho lasciato il telefonino su un tavolo durante una festa di Natale, mi scuso per gli ultimi tweet. Però questo, sì, questo è il mercato nell'era dei social, no? Ma io ci credo poco, posso dirlo? Non lo so, puoi dire quello che vuoi. No, ci credo poco perché mi sembra strano, mi sembra un po' cervellotico pensare che lui lascia il telefonino, uno gli entri con, magari anche con la password. Beh, in realtà la magari l'hacker di Cerci, magari l'hacker di Cerci. Capito, e poi lì arriva uno che è così diabolico da pensare a una roba del genere, no? Invece che scrivere Buon Natale, scrivere roba del genere, mi sembra un po' complesso, mi sembra più probabile, ma ripeto, non bisogna fare spaccare intenzioni, mi sembra un pochino più probabile che lui abbia scritto, l'abbia sparata un po' grossa e si sia pentito di averla sparata, ecco. Questa è la sostanza. Comunque sia, non cambia niente, nel senso che poi alla fine comunque è una voce di un opinionista, probabilmente con le sue fonti, che non fa altro che confermare il fatto che è una ipotesi, insomma non capita delle volte di lasciarsi andare, cioè non è la Cassazione, con tutto rispetto per Trevor Sinclair e per la BBC, poi non buttiamoci giù, sì, ma noi scherzavamo, siamo decisamente meglio, anche perché c'è il traffico, quindi ci fermiamo, c'è il traffico, un minuto, torniamo, Pierluigi Pardo, Tancredi Palmeri, non vi ho ancora dato i numeri, 800 24 00 24 per chiamare, per dirci dove pensate che riappaia lo spirito di José Mourinho, poi parleremo anche del mercato, del Milan, delle ultime parole di Berlusconi, che evidentemente non ha gradito nemmeno le due vittorie consecutive di Mihajlovic. Per gli sms e WhatsApp 349-238-6666. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto si è sgonfiato il caso delle risse nello spogliatoio dell'Inter. Io non so, Tancredi, tu che idea ti eri fatto, però insomma oggi abbiamo letto che non c'è nulla di drammatico, che sono cose che capitano, che ci sarà qualche multa, insomma, normale amministrazione un po' in tutti gli spogliatoi. Tancredi, ero a San Siro domenica per Inter Lazio e dopo poi nella mix zone, insomma sala stampa e tutto. Di solito, quando succedono queste cose immediatamente, di solito si sente un friccicorio, un brivido che attraversa la sala stampa, la mid-zone, anche se nessuno è certo, ma di solito c'è. Mentre invece, nonostante la sconfitta, c'era abbastanza calma. Poi, insomma, tutto è relativo. Però magari effettivamente è stata veramente qualche cosa che sì, è successo, però in fondo che fa parte delle logiche dello spogliatoio, niente, insomma, nessun ok corral tipo Mancini e Osvaldo l'anno scorso, con Mancini che agli insulti di Osvaldo risponde rivolgendosi agli altri dicendo ma questo chi è, e pochi giorni dopo Osvaldo si trasferisce e va via dall'Inter, cioè tendenzialmente. Poi ovviamente la mano sul fuoco in queste cose è difficile metterla. No, ma è evidente che qualcosa è successo, insomma, caso però che si sta ridimensionando dopo 24 ore. Grazie Tancredi. Ciao ragazzi, ciao. Buon Natale. Ciao, auguri. Ciao. Grazie a Tancredi, ciao. Palmeri. Oh, intanto chiede un amico se in Inghilterra un mister può allenare due squadre nello stesso anno, perché in Italia non può, in Inghilterra può. Sì, esatto, però... questo rende ancora più intricato e affascinante lo scenario. No, sulla cosa dell'Inter, devo dirti che insomma ieri ne abbiamo lungamente parlato, e poi ci sono arrivati anche messaggi, c'è chi diceva che ne abbiamo parlato troppo, chi diceva che l'abbiamo difeso, mi sembra che comunque nella notizia del giorno che è confermata, che è quella della multa, ci sia un'ammissione che qualcosa è successo, cosa che io non avevo la certezza che fosse successo, quindi evidentemente qualcosa è accaduto, su questo non c'è discussione, è stata la stessa Inter per un motivo evidentemente di disciplina interna, di voler fare una lezione di un certo tipo, a riconoscerlo, e chiaramente con la multa implicitamente c'è un'ammissione che qualcosa sia accaduto. Poi, come dicevo ieri, io credo che in generale, quando le cose non vanno, quando si perde, lo spogliatoio è un luogo, può essere anche un luogo di discussione, di dialettica molto forte, anche di scontro. Cioè, di per sé, ribadisco quello che ho detto ieri, non ci vedo nulla di particolarmente drammatico, ecco, non ci vedo nulla di così tremendo e così terribile. Peggio la rassegnazione, sì, il tema di ieri, nulla, di ieri, di oggi, credo Pier sia nel senso di accerchiamento, di questo sospetto che escano notizie per andare a dar fastidio a una squadra che sta vivendo comunque un momento complessivamente positivo. Insomma, oggi ridimensioniamo tutto nella normale routine di spogliatoio. Fammi salutare Federico Pastorello. Federico, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti e a voi e ai radioascoltatori. Capitano mille volte, no? Cose come quelle che forse sono capitate, adesso vedremo, insomma, San Siro. Stavo ascoltando le cose che stavate dicendo, effettivamente credo che sia assolutamente normale, perché perdere l'ultima partita prima di Natale, insomma, non è mai positivo, perché ti lascia quell'amaro in bocca che effettivamente prima delle vacanze non è mai piacevole, quindi a maggior ragione una sconfitta fa sempre male, in particolar modo in questo momento. Quindi credo che un po' più di tensione del normale ci fosse, qualche parola forse volata, ma insomma, ripeto, credo che siano assolutamente cose normali e logiche, anzi questo è anche secondo me una cosa positiva, perché vuol dire che la squadra ci tiene, vuol dire che l'allenatore, questo lo sappiamo perché lo conosciamo, è uno che non vuole mai perdere, quindi credo che anche questo spirito battagliero, diciamo così, possa fare anche del bene, insomma, ecco, perché può anche far piacere. Da troppe parti che l'Inter è la designata a vincere per forza, quindi nella realtà non è detto che sia così. Napoli comunque è una grande squadra, sta facendo un grande campionato, la Fiorentina comunque tutti dicono si ferma prima o dopo, però intanto arrivata lì a un punto a metà del cammino, quindi senza dimenticare la Juve, che secondo me sarà invece quella proprio, sarà la prima rivale per l'Inter, per la vittoria del campionato. Quindi voglio dire, è bene che ci siano anche un po' di tensione, un po' di piccole scaramucce all'interno di un spogliatoio per tenere alta la tensione. Che succede a gennaio? Girano soldi o no quest'anno? Ma come sentite dalla mia voce, direi di sì, perché l'ho persa a forza di parlare al telefono, quindi scherzi a parte, credo che sarà un gennaio movimentato. Io credo che ci saranno delle cose interessanti sia in Italia sia nel mercato internazionale. Nel mercato internazionale sicuramente anche grazie a questi movimenti di panchina che secondo me ci saranno e saranno anche interessanti da vedere, che quindi probabilmente obbligheranno anche un po' una mini trasformazione delle varie rose, e in Italia perché comunque chi per un motivo o chi per un altro si deve rinforzare, chi per salvarsi, chi per vincere, chi per raggiungere un particolare traguardo. Io credo che sarà un mercato interessante e che appassionerà molto tutti i tifosi. Pier? Sì, io credo, poi adesso Pastorello ce lo confermerà o meno, io penso che il nuovo contratto su dei diritti televisivi, quello che sappiamo è anche oggetto di legittime analisi e indagini da parte dei magistrati in questo momento, però dal punto di vista strettamente numerico è stato un contratto che secondo me ha ridato l'infa al calcio italiano. Io ho la sensazione che il peggio sia passato dal punto di vista economico, poi ovviamente i soldi bisogna saperli spendere. In questo momento c'è il Milan sul banco degli imputati perché probabilmente per certi giocatori, sì, i risultati non arrivano, però ecco, io ho avuto la sensazione che dall'anno scorso a quest'anno qualcosa sia cambiato, forse sono i diritti TV, forse è qualcos'altro, però faccio fatica a pensare che possano essere state altre le cause, perché poi insomma, anche se per l'anno scorso di questi tempi mi viene in mente che il Milan aveva praticamente annunciato Cerci, l'Inter avrebbe fatto in frettissima Podolski e Shaqiri, il Napoli aveva preso Gabbiadini, se ricordo male, già a dicembre. L'estate 2014 è l'estate dove i Turbo era stato l'acquisto più caro. Quest'anno di acquisti da 25-30 milioni di euro ne abbiamo avuti tanti, anche sopra i 30 milioni di euro. Quindi qualcosa è successo, poi che siano i diritti Sì, o sia qualcosa, c'è qualche problema di... Aspetta Pier, c'è qualche problema, adesso ti riagganciamo così ti sentiamo meglio. C'è anche forse Federico Pastorello, mentre un amico scrive in Italia sono sempre più folli, rischiano l'esonero con squadre che vanno bene e poi le cose vanno peggio. Allora da Milano fa il nome ad esempio di Walter Zenga, effettivamente fin qui la Sampdoria non ha avuto nessun miglioramento dal cambio di panchina. Forse pesa sul prossimo mercato anche il fatto che in tanti si stanno giocando davvero l'idea di entrare in Champions, di vincere lo scudetto, e questo è uno stimolo importante. Sì, sì, allora beh, innanzitutto diciamo che alla base si sta sicuramente un po' più di salute finanziaria dei club, e questo sicuramente dato anche da questo nuovo contratto dei diritti televisivi, ma si è tornato a vedere investimenti come prima, quindi io da questo punto di vista sono d'accordo con Pierre che il motivo per il quale tutto è iniziato è sicuramente questo, che ha portato un po' di linfa nuova nei club nostrani, quindi degli investimenti che non si vedevano da anni effettivamente finalmente si sono rivisti, quindi questo come prima cosa. Poi dopo chiaro la fame che si sta mangiando, quindi probabilmente il fatto di vedere più probabile un obiettivo fa magari venire voglia ai vari presidenti di provare a fare un piccolo sforzo per ottenere un grande risultato. Quindi da questo punto di vista è la verità, i numeri lo confermano, mi sembra che già quest'anno siamo stati terzi per volumi d'affari fatti nel calciomercato, quindi questo già non si vedeva da anni dietro, quindi io credo assolutamente di poter rispondere affermativamente a questo. Sì, che ci sono i soldi, ci sono anche a gennaio, Pier, prego. Tutto il resto, perché sì, appunto abbiamo il secondo miglior contratto al mondo per quantità di soldi che sono entrati dalle televisioni, quindi siamo molto competitivi. Non siamo competitivi purtroppo sulle infrastrutture che danno la possibilità di generare extra ricavi, cioè la grande distanza rispetto agli inglesi c'è anche quella sui diritti, perché sappiamo che gli inglesi hanno fatto un contratto che non dimenticarti anche l'incredibile forza che ha adesso la sterlina, guarda io ho vari calciatori in Premier, penso che hanno visto aumentare i contratti, perché sono contratti lordi, quindi vuol dire non è che li abbiamo modificati, ma per il potere di acquisto. Mi ricordo il contratto di Zabaleta, che lui chiaramente fa il conteggio magari con la sua moneta, ma è tipo aumentato senza toccarlo del 25-30%, cioè vuol dire che alla fine tu magari guadagni 3 milioni invece in realtà nei 4, cioè, quindi ha aumentato la forza rispetto agli altri club in maniera enorme. Hanno abbassato anche leggermente le tasse negli ultimi 3 anni. Gli inglesi vivono in un altro mondo, questo è evidente. 5-6-7% in più e meno a questi livelli sono milioni. Diventa facile anche fare il lavoro del procuratore quando tratti con gli inglesi. Io però ho 3-4 domande flash per Federico Pastorello. La prima ovviamente dove va Pepito Rossi, perché insomma Ferrero ha detto noi lo prendiamo in prestito purché la Fiorentina paghi l'ingaggio in euro, credo, non in sterline. Non so cosa ne pensi tu. Sarebbe in dollari, visto che lui ha... In dollari, sì. No, dal punto di vista il presidente Ferrero è sempre simpaticissimo. Allora, sicuramente la Fiorentina credo che si sia reso conto che non può trattenere Pepito perché non rientra nei piani tecnici del di Sosa, e quindi sicuramente il ragazzo rispetta questa decisione, però altrettanto vuole andare via, quindi desidera andare a giocare più che altro. Quindi io credo che al 99% vedremo Rossi con un'altra maglia. Ma resta in Italia o va via? Va fuori? Si sta valutando veramente un po' tutte le cose che stanno arrivando. Abbiamo offerte per il momento sia dall'Italia che dall'Inghilterra che dalla Spagna. Adesso il più è capire dove veramente è giusto andare al fine di poter trovare quella continuità che lui necessita per provare a convincere Conte a farsi chiamare per l'Europeo. Poi Candreva va all'Inter, chiede Ulisse 349-238-6666. Grande Ulisse, che è uno dei nostri fedelissimi ascoltatori, quindi diamogli la risposta, così ci mettiamo tranquilli fino a febbraio. Ulisse è simpaticissimo, quindi merita una risposta. No, in realtà non lo so, la realtà è che Antonio ha un contratto ancora con la Lazio, e direi una bugia se dicessi che non è felice di essere alla Lazio, nel senso che voleva addirittura essere nel capitano, quindi lui si sente veramente la maglia della Lazio addosso. però chiaro, le logiche del mercato possono portare sempre a tante cose, quindi io dico mai dire mai, perché credo di non dire una bugia, però si valuteranno comunque le varie situazioni che verranno fuori, come ogni estate, perché alla fine Candreva ha avuto ogni anno offerte, quindi dopo alla fine è sempre rimasto, vediamo se quest'anno succederà ancora così oppure si andrà via, ma comunque se dovesse succedere qualcosa non credo che succederà prima. Beh, intanto il suo amore per l'Inter è potenziale. Sì, l'ha già espresso, no? L'altro giorno, francamente, in tanti abbiamo fatto questo pensiero, no? Poi in qualche modo è anche un'ulteriore dimostrazione di professionalità da parte del calciatore, perché comunque uno legge lui i giornali, gioca per la Lazio, è pagato dalla Lazio e gioca per la Lazio, però cioè, penso che Candreva finisce, che può fare, adesso i tifosi all'Inter li avviso prima, tocchino ferro, ma penso che Candreva finisce veramente all'Inter e poi i tre punti dell'altro giorno in qualche modo saranno decisivi, quindi anche per la sua stessa stagione, ma ripeto, questa è una sottolineatura ulteriore della professionalità, cioè. Io ho un'ultima curiosità, poi lasciamo Federico Pastorello, che conosce molto bene il mercato francese. Oggi sui giornali c'è questa suggestione di Inzaghi sulla panchina del Lione. Io non so cosa pensi tu. Beh, il Lione sta cercando sicuramente un allenatore, questo è noto. Si sono fatti nomi, già di qualche nome di qualche italiano, quindi credo che la possibilità di vedere magari un italiano sulla panchina del Lione potrebbe essere reale. E se Inzaghi, non lo so, mi risulta che stiano cercando qualcuno con un po' più di esperienza, però Pippo ha avuto, anche se breve, ha allenato uno dei club più importanti sia in Italia che in Europa, quindi da questo punto di vista potrebbe anche essere. Quindi non lo escludo, anche se non ne so nulla, ma non lo escludo. Sì, il Milan fa sempre curriculum, anche se è andata male. Grazie Federico. Assolutamente. Ciao Federico, auguri. Grazie a voi, è sempre un piacere sentire. Auguroni a tutti. Grazie Federico Pastorello. 800 24 00 24, ci chiedono gli acquisti del Toro, di tante altre squadre, e poi adesso chiariamo tutto dopo la borsa. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Giovanni dalla provincia di Piacenza. Giovanni. Sì, buongiorno e grazie per avermi richiamato. Grazie a te. No, una piccola polemica. No, dispiace che quando, almeno per quello che vedo, che leggo sulla stampa, pare che non è una cosa da poco quello che è successo nello spogliatoio dell'Inter domenica sera. Cosa è successo, Giovanni? Beh, insomma, almeno dalla stampa pare che siano... quasi che siano arrivate alle mani. Pare che abbiano discusso, pare. Ok, però no. Non avviene da nessuna parte, no? No, il punto, vabbè, io non c'ero, quindi non c'eravamo nessuno di noi, quindi è quello, almeno noi. Ma tu hai sentito parlare ogni tanto Lippi, ad esempio, dei suoi rapporti con Vieri, o c'è ad esempio un passaggio molto bello, adesso io, ma non per ridimensionare quello che è successo, se è successo, cosa è successo l'altra sera nello spogliatoio dell'Inter dopo Inter-Lazio, ma per raccontare che sono davvero cose che capitano spesso. Chi era presente durante il Mondiale 2006, che l'Italia ha vinto, racconta ad esempio di una riunione tecnica con Lippi che insulta tutti, prende, sbatte la porta e se ne va. Certo, io credo che siano cose di campo, credo che siano cose che possono succedere, credo che siano cose che accadono dappertutto, voglio dire, chiunque, voglio dire, qualsiasi professione uno faccia, voglio dire, succede magari che a un certo momento della professione può avere un faccia a faccia con i suoi collaboratori, con i suoi colleghi. No, però quello che almeno io vedo è il fatto che quando queste cose accadono in determinate squadre di certe posizioni geografiche, mi sembra sempre che si debba ridimensionare tutto quello che accade. Se questo accade, io sono tifoso del Napoli, lo premetto prima, sì. Se queste cose accadono nella Lazio, con la Roma, con il Napoli, piccole cose mi sembra che diventano i problemi, perché a Napoli non si può vincere, perché a Roma non si può vincere, perché con la Lazio non si può vincere. Ma è vero che anche sappiamo anche che Mancini gode, voglio dire, della vostra stima, della vostra fiducia, voglio dire, sì, alla stampa. Come Sarri, del resto, come Sarri del resto, come Garcia fino a che i risultati hanno avuto un senso, Giovanni. Io non riesco a capire francamente dove vuoi arrivare. Cioè, tu dici che siccome è l'Inter si ridimensiona, fosse il Napoli o la Roma, la cosa verrebbe trattata in maniera ancora più approfondita. Io ho davanti la prima pagina della Gazzetta oggi, il pugno duro, il caos prima e dopo la sconfitta. Ieri, a parte la Gazzetta che era in sciopero, era sulle prime pagine di Corriere dello Sport, Tutto Sport, era l'apertura delle pagine sportive dei generalisti. Non riesco a capire in che cosa in questo caso il tema sarebbe stato ridimensionato, però prego Giovanni. No, ma quello che sentivo oggi da voi, voglio dire, no? Che ma non è quello che pensiamo e quindi lo diciamo, No, ma perché ci mancherebbe altro, voglio dire, che non dovete dire quello che voi pensate, ma io dico anche io quello che penso, perché vi ringrazio per darmi l'opportunità di farmi dire quello che io penso. Io credo che è successa una cosa grave, hanno perso una partita, Mancini non ne ha azzeccato una l'altra sera, sono cose che bisognerebbe dire. Voi siete la stampa, fate opinione, come la fate su queste cose che volete ridimensionare o si tende di ridimensionare quelle che accadono all'Inter, così con tutte le altre cose, semplicemente questo, punto e basta. E anche questo aiuta a vincere, ve lo garantisco. Sì. Io credo di sì, anche queste cose qui aiutano a vincere. Insomma, è il solito complotto per portare avanti le squadre del nord, Giovanni, abbiamo capito. Alessandro da Pescara, Alessandro. Sì, salve, buon pomeriggio. Salve. Sempre delle bellissime trasmissioni. Grazie. C'è anche chi scrive al 349-238-6666, ti è andata male in trasmissione in questi due giorni, super difesa dell'Inter, ti toccano gli straordinari, ma poi ieri eravamo invasi di messaggi di tifosi dell'Inter che ci accusavano di continuare a parlare di una notizia falsa. Ora, noi non è una notizia falsa, semplicemente la pensiamo diversamente, però prego Alessandro. Sì, volevo dire questo. Oggi gioca la Serie B, la Serie A è ferma, potreste dedicare 10-15 minuti anche al campionato di Serie B? Siamo tifosi anche della Serie B, non solo domani gli dedichiamo un intero blocco, Alessandro, con il presidente della Lega B a Bodi, abbiamo già l'appuntamento scritto. Grazie Alessandro. Grazie, buon pomeriggio. Parliamo un po' di mercato. Sentito che bella musichetta brasiliana, Luca Marchetti da Sky. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio. La messa per Galliani? Sì, perché abbiamo scoperto tutti leggendo oggi i giornali. Oddio, che scoperte, così tutti gli anni, Però insomma, abbiamo scoperto tutti leggendo i giornali questa mattina che Berlusconi ha telefonato a Galliani per spiegargli che non ce l'aveva su con lui quando ha detto quelle cose lì sul Milan. Poi ne parleremo dopo il GR delle 15. E che Galliani era a Rio de Janeiro in vacanza. Sì, come sempre, sì. Fino al 5. A rigenerarsi prima del mercato di gennaio, dove il Milan prenderà certamente Witzel, giusto? No. Non credo, io credo di no. Sì. Che fa il Milan? Mi dire che si ferma Boateng perché... No. Dovrà farlo per forza. Scusate, ha cambiato il sistema di gioco. Aspetta che cambiamo anche linea perché devi aver ereditato il telefonino da Pierluigi Pardo. Pier, ci sei? Sì. T'abbiamo recuperato. No, non fa solo Boateng il Milan, no. No, verrebbe a dire, spero di no, per i tifosi che stanno ascoltando, nel senso che Boateng chiaramente è un'operazione, così, è una commessa. Oggi è difficile, siamo alla vigilia della vigilia di Natale. Proviamo Luca Marchetti. Luca? No, allora facciamo così: se mi fate sentire De Laurentiis sugli acquisti di gennaio del Napoli. Quando i miei hanno sentito dire compratelo per giugno, mi hanno detto e quell'altro lo compriamo per gennaio. Dice che ne compriamo due? Perché che ti fa schifo averne due straordinari? Allora mi hanno guardato e hanno capito che forse era una soluzione giusta. Adesso bisogna vedere se quell'altro che abbiamo chiesto a gennaio però sia disponibile, perché poi ragazzi miei, qui in Europa siamo in tanti. Allora, ci riproviamo, Luca Marchetti. Eccoci qua. Eccoti qua. Eravamo rimasti a Witzel, poi andiamo direttamente sul Napoli, vai. Napoli. Ma tra quello e quell'altro io non so sinceramente i giocatori a cui faceva riferimento De Laurentiis, a cui piace giocare molto sul mercato, a cui piace molto fare il presidente, soprattutto in questo periodo. Ti dico che il Napoli prenderà due giocatori e secondo me saranno un difensore e un centrocampista importanti. Che potrebbe essere André Gomes. Potrebbe essere André Gomes, potrebbe essere Klaassen dell'Ajax, potrebbe essere Eriksen, che è un ragazzo norvegese che gioca nella Z, che forse è quello che costa di meno, ma è quello che segna di più. Potrebbe essere Xhaka del Borussia Mönchengladbach. Insomma, i nomi sul mercato, sulla taccuino, ormai taccuino non ce l'ha più nessuno a dire la verità. Però, insomma, i nomi nella testa di Giuntoli sono questi qua. Ne stiamo parlando da un po' di tempo. Un altro nome potrebbe essere quello di Rabiot, del Paris Saint-Germain, per il quale il Napoli un sondaggio l'ha fatto e il Paris Saint-Germain ha detto per il momento non si tocca, però non ha detto in assoluto non si tocca. E quando il Napoli e quando la Juventus ha saputo che il Napoli lo stava cercando, anche la Juventus ha riscaldato i motori su Rabiot. Poi tanto lì decide mamma Rabiot e quindi bisogna parlare con lei. Però hai l'impressione anche tu, abbiamo recuperato Pierre? Ci riproviamo? No, non ancora. Hai l'impressione anche tu che De Laurentiis abbia la convinzione che con un piccolo sforzo davvero può mettere a disposizione di Sarri una squadra che lotti per lo scudetto fino alla fine? Ma ci lotta anche adesso per lo scudetto fino alla fine. Sarebbe delittuoso per manca De qualcosa però, perché sta giocando in 13 il Napoli. Sì, ma per scelta, secondo me, più per scelta che per necessità. E comunque impreziosire la rosa sicuramente fa bene al Napoli, cioè questo Napoli è molto competitivo sia in Italia che in Europa. È chiaro che se tu vai a prendere un giocatore come Rabiot, come Klaassen, come Gomez, è un vantaggio ulteriore, anche piuttosto importante, sia a livello qualitativo che a livello di esperienza. Forse il piccolo problema il Napoli potrebbe averlo dietro, perché mi spiegano che gli schemi di Sarri sono piuttosto complicati da digerire, ci vuole un po' di tempo e quindi quello che prendi adesso o li conosce già, ed è per questo che si parla molto di Rugani, di Tonelli, di Barba, eccetera, eccetera, o di Ranocchia che Sarri ha avuto, perché magari quello che prendi adesso c'ha bisogno di un ulteriore po' di tempo per acclimatarsi a Napoli. Detto questo, se compri un grande giocatore, penso che si parli la stessa lingua, ecco. Sì, ci fermiamo per il traffico, ci sono anche Alberto da Milano, Mirko dalla provincia di Milano, magari recuperiamo anche Pierluigi Pardo se lo ritroviamo, rientriamo anche con Luca Marchetti, 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, scrive un amico, Michele da Taranto, Juventino, 349-238-6666 su WhatsApp, giusto per dire faccio il medico e questa mattina mi sono accapigliato per 20 minuti con la mia caposala. Hai capito? Poi c'è anche chi scrive, solo chi non ha mai giocato a calcio considera strano quello che è successo nello spogliatoio dell'Inter. Però se avete idee diverse, che sia un inferno, una polveriera, noi siamo qui e accettiamo le opinioni di tutti. Luca, a proposito di Inter, ci chiedono gli amici da casa se questa roba di Pirlo che torna ancora sui giornali è una suggestione o no, e se Cagliari allora arriva in Italia, Bologna, poi magari a giugno l'Inter. Alla prima domanda ti dico che rimane una suggestione, perlomeno per le informazioni del nostro possesso. È un giocatore straordinario che non credo abbia neanche la pulsione di andare all'Inter, lui. Che poi l'Inter possa essere interessata, che magari si sia informata, io questo non lo metto in discussione, perché rispetto il lavoro anche dei colleghi, perché se da qualche parte uscite, insomma, non è che uno le cose se le inventa di sala pianta, però non credo che sia un giocatore prossimo a vestire la maglia dell'Inter. Per quanto riguarda Calleri, è un giocatore che invece l'Inter sta seguendo con grandissima attenzione. Come sai benissimo, c'è il discorso del fondo che lo acquisterebbe per poi appoggiarlo al Nacional di Montevideo e portarlo poi in Italia. L'Inter non lo può prendere perché è extracomunitario. La sinergia sarebbe con il Bologna, con il quale c'è un discorso Ranocchia. E quindi fanno il pacchetto completo, anche se credo Ranocchia serva anche per tirar sui soldi che necessitano per fare il mercato di gennaio. Ma guarda, sarebbe un prestito, quindi sì, col Bologna non c'è dubbio, altrimenti va credo all'estero, insomma, per guadagnare qualche soldo. Abbiamo la Fiorentina, credo con Lisandro Lopez addirittura d'arrivo. Sì, sì. E Schettino, il centrocampista uruguaiano che la Fiorentina aveva, credo abbia già annunciato. Probabilmente arriverà anche un altro centrocampista, però. Quindi i due acquisti, sperando non siano solo annunciati da Della Valle, questi sono. E poi il finale è per la letterina a Babbo Beppe Natale. Oggi c'era su Tutto Sport Marotta travestito da Babbo Natale, dove fondamentalmente c'è solo un nome, o meglio un profilo, quello del centrocampista. Sì, io sul discorso Lavezzi non perderei le speranze in assoluto, perché è un tipo di giocatore che alla Juventus può far comodo anche per regalare ad Allegri una soluzione tattica in più, tanto per capirci, per fare il 4-3-3 con due ali, Quadrato da una parte e Lavezzi dall'altra. Non sarebbe oneroso come acquisto e la Juventus ha sicuramente parlato con l'entourage del giocatore. Il problema sarebbe che in questo momento Lavezzi non vorrebbe lasciare Parigi, cioè non lo vorrebbe fare prima di giugno, quando andrebbe a scadenza naturale del contratto. Il centrocampista, come dicevi tu, è il grande acquisto che farà la Juventus. Io non so se lo farà adesso, è molto più difficile, piuttosto che a giugno. Sì, soprattutto se tratti profili come Gundogan o come giocatori. Sì, sì. Aspetta, anche perché per esempio ti limiti molto in questo momento il mercato. La Juventus non può acquistare extracomunitari e quindi già una buona fetta del mercato per quel ruolo lì va via. Sì, anche se è vero che portare adesso un grande centrocampista significherebbe, credo, sigillare la stagione, cioè la Juve è già più forte, ha dimostrato a inizio stagione di poter andare in difficoltà, soprattutto se ci sono degli infortuni a metà campo, se Khedira gioca con poca continuità. Se tu oggi vai a correggere quell'errore, io credo che anche la volata scudetto di cui stiamo parlando, l'equilibrio che ci piace tanto, potrebbe in un certo senso terminare prima del previsto. Ti giro un paio di domande che arrivano da casa. La prima è su El Shaarawy, che non sta convincendo al Monaco, credo manchi una partita per il riscatto obbligatorio. Può sì. Tornare in Italia? La Lazio, è stato proposto alla Lazio sul discorso Keita. Ma perché il Monaco non lo riscatta? Non vorrebbe riscattarlo, però essendoci questo obbligo con le presenze diventa difficile, quindi se riesce a sistemarlo a gennaio risolve il problema alla radice. Poi la voce di Gabbiadini e Valdifiori a Torino e Lazio, no scusa, al Torino, è tale o c'è qualche certezza? Ma il Torino un centrocampista in quel modo lo sta cercando, su Gabbiadini anche il Bologna si è fatto avanti. Il che significa che il Napoli ha bisogno di un attaccante poi. Il Napoli gli ha detto che non lo vende, infatti, però questo di contrario va a significare ad esempio che il Bologna, che ha cercato Giuseppe Rossi, cioè cercando Gabbiadini, potrebbe fare la sponda all'Inter per Calleri, comunque un attaccante lo prende sicuro. E poi l'ultima è su Montolivo e la Juventus, Antonio da Fara San Martino. Non credo che ci siano spiragli, Montolivo credo che rimanga al Milan. Grazie Luca. A te, buon pomeriggio. Grazie a Luca Marchetti dagli studi di Sky. Pier? Ancora nulla, ma continuiamo a cercarlo. Alberto da Milano, Alberto. Sì, ciao a tutti. Eccoci. Allora, io volevo commissariare il Milan fino a fine gennaio. Commissariare il Milan fino a fine gennaio? Sì. Per evitare i due giorni del Condor, ho capito bene? Perché ci sono due o tre cose da fare molto semplici, che sono queste. Prima di tutto bisogna fare l'operazione, diciamo, Ancelotti 2, quando Ancelotti ha preso Pirlo e l'ha messo davanti alla difesa. E noi abbiamo Bertolacci, bisogna fare la stessa cosa, prendere Bertolacci e metterlo davanti. Almeno c'è qualcuno che piedi buoni che riesce a fare gioco, perché lì Montolivo è totalmente inguardabile, proprio non, Milan non può avere un centrale che distribuisce gioco e perde 10 palloni in fallo laterale a partita, impossibile. Quindi Montolivo va degradato a Gattuso, perché è un interditore, su quello sì. È capace, bravo e forte. Però Bertolacci a Genova giocava almeno 20 metri avanti rispetto a Pirlo davanti alla difesa. Ma Pirlo, anche prima di arrivare al Milan, Pirlo giocava 30 metri avanti, perché è trequartista. Può essere un'idea, poi, Alberto. Poi? La genialità, e poi vabbè, ci teniamo naturalmente Bonaventura, a questo punto bisogna comprare i terzini, inutile con Centravanti, abbiamo gente forte, ma che c'è, bisogna comprare due terzini, perché lì siamo mediocri, non si può andare avanti con Abate, De Sciglio, che ormai è una promessa mancata, due terzini, è il mercato, e poi fare la squadra come di quelli. Aspetta che ti faccio rispondere da Pierluigi Pardo. Pier, sì, se ti convince questa cosa, cioè che il problema del Milan siano i due terzini e portare Bertolacci a fare il Pirlo. Ma io penso che... Che è una teoria interessante. Sicuramente sui terzini il Milan può e deve fare di più. Questo non ci sono assolutamente assolutamente discussioni. Credo in generale che Bertolacci, per fare il Pirlo, debba mostrare una personalità che in questo momento ancora non ha. È un giocatore di buona qualità, secondo me è fra i meno negativi in questa prima parte della stagione, ha certamente il talento, crescerà, il ragazzo sarà, facciamo gli auguri per il patrimonio, però dico anche che insomma se ne vuole, non è soltanto un discorso dal punto di vista tattico, secondo me è un discorso dal punto di vista proprio del carisma che riesce ad avere in campo, di quanto i giocatori possono fidarsi di te, di quanto ti viene a cercare il pallone. Poi 20 metri avanti, 20 metri indietro si possono ovviamente discutere. Pirlo ha cambiato a un certo punto della sua carriera, il primo Pupazzone, poi Ancelotti che lo scelse per quel tipo di posizione proprio perché ha delle caratteristiche, perché aveva perso un po' dell'esplosività e della velocità che aveva ovviamente da giovane, ma aveva invece guadagnato in termini proprio di carisma e di personalità in mezzo al campo, ed era diventato praticamente, insomma, una delle grandi novità di quella strada di Ancelotti, no? Sì, Pirlo era un fuoriclasse e si capiva già all'epoca. Io credo che Bertolacci sia un giocatore diverso. Bertolacci deve essere considerato un giocatore di prospettiva. Chiaramente è stato pagato molto per il ragionamento che facevamo prima con Pastorello. Da quest'estate si spende di più, quindi lui, Romagnoli, ma lo stesso Condobbia. Insomma, Condobbia è un giocatore che è stato pagato moltissimo e che in questo momento sta faticando un po', no? Comunque ci si aspettava qualcosa di più. Per tutti questi giocatori deve valere un principio, cioè che devono essere attesi, se sono giovani, nel caso di Bertolacci è certamente così, perché non devono essere l'etichetta, il cartellino, il costo del cartellino non deve diventare un fardello ulteriore, sì, pesante. Non deve pesare, schiacciarli. Mirko dalla provincia di Milano, vediamo se riusciamo a fare tutti e due gli ascoltatori che mancano. Mirko? No, è caduto. Carlo dalla provincia di Cuneo. Sì, ciao, grazie per la convocazione. Una brevissima riflessione. Allora, stiamo dicendo, e io sono d'accordo, che Sarri sta facendo un ottimo lavoro al Napoli, e allora mi domandavo che termini dovremmo utilizzare per l'allenatore Giampaolo dell'Empoli, perché mi sembra che in una squadra non credo più forte dell'Empoli dell'anno scorso, a 27 punti dopo 17 giornate, sta facendo credo ancora meglio di Sarri che l'ha preceduto, quindi sì, tutto questo per dire che in Italia probabilmente e per fortuna produciamo ancora dei buoni allenatori. Grazie, Pier, e auguri di buon Natale. Su questo credo non ci fosse dubbio. No, non c'è dubbio e non, insomma, credo che la grande stagione di Giampaolo non tolga nulla a Sarri, certo che sono due storie ovviamente diverse. Giampaolo è certamente merita ogni applauso perché è fra gli allenatori emergenti di questa stagione, assolutamente, assieme a Reina che sta facendo cose importanti, assieme a Di Francesco che ormai però conosciamo perché ogni anno fa cose esaltanti. Sarri quest'anno fa uno sport diverso rispetto a quello dell'anno scorso, rispetto a quello di Giampaolo di quest'anno, cioè sta facendo lo sport di chi deve lottare per vincere e ottenere grandi traguardi. Fino a questo momento il cammino mi sembra molto, molto interessante e molto virtuoso dal punto di vista dei risultati, ma anche direi soprattutto dal punto di vista del gioco. Cioè Sarri, al di là dei punti che ha in classifica, insomma sta dimostrando delle cose, sta dimostrando, ci sono degli allenatori, Massi è stato il primo tra questi, penso all'Eriksson del Göteborg, penso a Guardiola, ci sono degli allenatori che ti danno la sensazione di contribuire, diciamo, al progresso del gioco del calcio, alla stessa qualità del gioco del calcio, e Sarri nel suo piccolo, secondo me, questo lo sta dando. Quindi, sì, poi sta stravincendo il confronto a distanza con quello che abbiamo visto Benitez, e quindi insomma anche questo depone a suo favore. Poi a proposito di allenatori italiani, Pier, Prandelli potrebbe finire in Russia allo Zenit San Pietroburgo, e sai che dicono che Spalletti alla fine potrebbe stancarsi di aspettare la Roma e firmare per una squadra cinese? Così lascia Garcia a Roma, che sarebbe un paradosso con tutto quello che però abbiamo visto. Io ti dico che secondo me, se c'è un momento, per carità, poi i treni spesso non ripassano, ma se c'è un momento, e non parlo soltanto di Roma, in cui Spalletti invece, se gli posso dare un consiglio, farebbe bene a essere prudente, è questo, perché ci sono tante situazioni, mi sembra, nel calcio italiano e non solo, di panchine molto interessanti, quindi per carità, i soldi sono soldi e non mi permetto, però in questo momento c'è la Roma, ci potrebbe essere il Milan, ci possono essere delle panchine interessanti all'estero, mi sembra che si vada verso un assetto domino. Dove però nessuno gli darebbe i 6 milioni netti a stagione di cui si favoleggia per la Cina. Dobbiamo fermarci, ciao Pier! ciao, ciao, a domani. A domani, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Noi invece torniamo dopo il GR delle 15, 800 24 00 24. Se avete delle opinioni sulla crisi del Milan, sulle ultime parole di Berlusconi, chiamatevi, prenotate, poi ripartiamo da qui. Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. 800 24 00 24. Rieccoci in diretta fino alle 15.30. Luca dalla provincia di Milano. Sì, ciao, sono Luca. Ciao. Due domande veloci su Milan. Sì. La prima è, secondo me, che Berlusconi non capisce troppo che la sua invadenza, anche per quanto giustificata dal fatto che c'è il capo, fa solo male alla squadra e all'ambiente. Sì. Primo. Nonostante che tutti vogliano. Luca, ti devo chiedere di stringere perché si sente malissimo. Qual è la seconda considerazione? Sì, la seconda è, perché ci ha rimesso Brighton tra Gagliani e Barbarella? Grazie. Bella domanda, perché evidentemente alla fine qualcuno andava sacrificato e il sacrificato è stato Braida, anche se poi Barbara Berlusconi aveva fatto appunti, torniamo al novembre del 2013, sulla conduzione sportiva del Milan, e alla fine la conduzione sportiva è rimasta a Gagliani, mentre Barbara Berlusconi si è presa tutta l'altra parte, quella di marketing, quella commerciale, però la parte sportiva è rimasta ad Adriano Gagliani. E tra l'altro risulta che anche in queste ore Berlusconi abbia poi telefonato a Gagliani per spiegargli che anche le critiche, quelle di cui adesso parliamo, erano rivolte più in generale alla conduzione tecnica del Milan e non a Gagliani e a come Gagliani sta portando avanti la squadra in questi mesi. Patrick dalla provincia di Macerata. Buonasera e buone feste a tutti innanzitutto. Anche a te, prego Patrick. Io sono un super tifoso del Milan e per il 2016 dico che vorrei e che non vorrei per il Milan. Sì. Io vorrei che noi tifosi innanzitutto non continuassimo a piangere sempre, perché dobbiamo avere lo spirito dei 70.000 allo stadio Colacavese e dei 90.000 a Barcellona per la finale di Coppa Campioni. Siamo una tifoseria che ha vinto tanto ma anche sofferto tanto, non dobbiamo scordarci il nostro passato, quindi meno pianti, più presenza allo stadio, più sostegno alla squadra, che la nostra è una fede incrollabile, lì devono saperlo tutti quanti. Cosa non vorrei? Non vorrei che Buonaventura Giacomo, che è un ragazzo bravissimo, che poi è nato qui vicino a San Severino Marche, per avere un aumento di stipendio debba cambiare procuratore, passare da Martorelli a Raiola e avere il doppio dello stipendio attuale. Cioè, non facciamo gli affari con i soliti, facciamo gli affari con chi veramente vale e diamo un futuro alla squadra, che noi aspettiamo solamente tempi migliori con un'immensa fede. Grazie, sì, a tutti. Anche se Buonaventura ha detto che questa ricostruzione non risponde al vero, poi noi siamo qui, aspettiamo e racconteremo se finirà con Raiola, con Riso o chissà con chi, perché è una vicenda che comunque merita di essere raccontata. Mi fate sentire insomma il riassunto del Berlusconi e non solo pensiero prima delle frasi dell'altra sera, che insomma hanno di nuovo rimesso Mihajlovic sotto i riflettori. Oh Santa, I've been waiting on you. Ieri sera sono stato a cena con Gagliani e con Mihajlovic, sono stato poco preciso, sono venuti da me Gagliani e Mihajlovic, così avevo la possibilità di avvelenarli se volevo, però le loro reazioni sono state molto positive. Well, the party's over, kid. Ascolto e non commento le dichiarazioni del presidente facendo allenatore. Poi, come detto, non parliamo più e non voglio più rispondere a queste domande sul presidente e tutto, perché sono sempre le stesse domande e le stesse risposte. Posso chiederle due cose, un commento sulla partita di ieri? Quando si vince si parla, quando si perde si sta zitti. siamo contenti di queste ultime due trasferte che erano fondamentali per la stagione. Qualche rimpianto, perché tutti noi a partire dall'allenatore pensiamo che se avessimo vinto a Carpi e in casa con il Verona, evidentemente avremmo avuto una classifica ancora migliore. There just ain't no getting around this. Life is hard. But look at me. Mi dispiace per qualcuno di voi che mi dovrà supportare almeno per altri 3 giorni, poi si vede avanti, però io non faccio caso a queste cose qua. Io ho fiducia nel mio lavoro e non mi faccio la testa di queste cose. Come detto, io sono sempre stato sereno e non ho problemi. Ciao Monica Colombo, Corriere della Sera. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, noi siamo anche contenti che resti Mihajlovic, par di capire che sia un po' meno contento Berlusconi. Allora, io leggo le frasi che oggi vengono riportate dal Corriere della Sera e anche dagli altri giornali. Io sono sempre innamorato del Milan, pensi lei, dice, parlando con un tifoso a una delle solite cene elettorali di Forza Italia, dice Berlusconi, pensi lei che quest'anno ho speso 150 milioni di euro eppure non so quando torneremo a vincere, lei non è incavolato? E poi ancora sul perché torni Boateng, dice Berlusconi, secondo lei è meglio Cerci? E poi l'altra puntura di spillo, nemmeno troppo, sull'utilità di Zapata, la risposta di Berlusconi, e a me lo chiede. Ora, tutto questo tradotto dal linguaggio di Berlusconi in italiano cosa significa, Monica? Ma significa un po' prendere le distanze sia da quello che è l'operato di Mihajlovic, che pur ha vinto l'ultima trasferta in campionato a Frosinone e che nella penultima gara ha agguantato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, e un po' mi sembra che ci sia anche una sorta di tirata d'orecchie a Galliani, visto che i soldi che sono stati spesi sul mercato sono stati, come dire, da lui maneggiati, insomma. Anche se poi viene fatto scrivere, trapela, che c'è stata la telefonata tra Berlusconi e Galliani, c'è stata la stima rinnovata, la fiducia, insomma, tutte cose già viste. Sì, ieri mattina il presidente ha chiamato Adriano Galliani, che era appena arrivato in Brasile, c'è stato questo lungo colloquio, la stima, l'amicizia restano, diciamo, è anche probabile che certe frasi siano state un po' come dire pronunciate, che siano state pronunciate in un clima da bar sport, visto che nell'ambito dello stesso ristorante c'erano sia i giocatori del Seregno per la cena sociale natalizia, sia alcuni ragazzini delle scuole calcio che lo hanno attorniato e gli hanno chiesto di fare selfie e foto. Quindi capisco che magari le frasi siano state pronunciate, ecco, un po' in un clima amicale o comunque appunto da bar sport. Fatto sta che tra le righe non si può non leggere una certa insoddisfazione per i risultati e per il rendimento dei giocatori acquistati. Sì, sorprende che la temperatura resti alta, perché noi insomma avevamo capito che vincendo le ultime due partite, Coppa Italia Marassi contro la Sampdoria, campionato a Frosinone, in qualche modo almeno Mihajlovic ci sarebbe garantito delle vacanze serene, cosa che evidentemente non è, perché queste frasi, per quanto in un contesto amichevole, tengono accesi i riflettori sul Milan, cioè diventa poi impossibile pensare a una normalizzazione. Sì, io credo che da quello che trapele, che comunque Mihajlovic resta sotto osservazione, non ha incantato il presidente né per il gioco né tantomeno per il suo modo di porsi, perché comunque questo atteggiamento da celoduismo o insomma un po' l'atteggiamento dell'uomo che non deve chiedere mai, che non subisce intromissioni da nessuno, fatto sta che al presidente piace fino a un certo punto, come le sue famose battute del tipo il presidente parla di calcio con il mio permesso. Quindi il feeling, semmai era sbocciato inizio stagione, adesso mi pare che sia che stia andando via via scemando. Sì, è destinato a restare un po' un corpo estraneo, Mihajlovic, temo, nei prossimi mesi nel Milan. A meno che i risultati non cambino in maniera drastica. Sì, io credo che fino alla fine comunque verrà difeso da Galliani, perché comunque il fatto di cambiare un altro allenatore significherebbe sconfessare tutto il progetto, ricominciare da zero. Ci sono ancora libero paga Inzaghi e Seedorf e comunque significherebbe ammettere ancora una volta il fallimento. Cosa succede a gennaio sul mercato? Turandosi il collo, sì, turandosi il naso, andranno avanti fino alla fine dell'anno. Sul mercato gennaio cosa succede? Perché pare di capire tra le righe anche del conto che fai, 150 milioni di investimenti Silvio Berlusconi, che non ci sia gran voglia di mettere soldi a gennaio. No. No, no, da Arcore trapela soltanto il desiderio di contenere i costi e quindi non credo proprio che ci saranno investimenti monster nel mercato di gennaio, ecco perché giocatori che potevano essere seguiti, sognati fino a poco tempo fa come Witzel, in questo momento paiono una chimera, perché di certo non verranno investiti 40 milioni, anche perché la Champions non è così vicina, rimane a 7 punti e quindi un conto era fare un investimento per tentare di sferrare l'assalto decisivo al terzo posto e un conto è cercare di lottare per un posto in Europa League, che è l'obiettivo che in questo momento mi sembra più realisticamente raggiungibile. A questo aggiungiamo che i soldi di B sicuramente non arriveranno, se arriveranno in tempo per il mercato di gennaio, e quindi tutto sarà eventualmente sulle spalle di Silvio Berlusconi. Grazie Monica. A voi buon pomeriggio e tanti auguri. Auguri anche a te, Monica Colombo, 800 24 00 24, Guido da Milano. Guido. Buonasera e tanti auguri a tutti. Grazie. Volevo fare due piccole presentazioni. La prima sull'Inter, che sì, questo nervosismo che ho visto durante la partita mi passa di vedere la stessa Inter contro la Fiorentina, che non potendo imporre il suo gioco, tutti i giocatori sono andati un po' in defagliali, ho visto proprio un po' tutti nervosi. E perché è una squadra che, se non riesce a imporre il suo gioco, diventa una squadra molto vulnerabile. Sì, anche se, squadra... anche se sono state due partite diverse, Guido. Sì, sono due partite diverse, però io di calcio ne mastico parecchio, perché ho fatto per una vita report per partite di squadre di Serie A, insomma, vissuto nel mondo che vivete voi, e guardo il calcio guardo in un'ottica un po' particolare, perché ho visto che questa squadra, a parte la fortuna di aver vinto 7 partite su grossi errori dei difensori, visto che Mancini si è lamentato l'altra sera dicendo che hanno preso un gol su una grossa stupidata dei suoi difensori, lui ne ha vinte 7 sulle stupidate dei difensori. E già la partita di Udine, per chi mastica calcio, ha dato dei riferimenti, perché il primo tempo fino al 30esimo l'Inter ha subito 16 tiri in porta dell'Udinese, non ha mai tirato in porta e poi ha trovato i regali dei difensori dell'Udinese. E il calcio purtroppo è anche un po' come nella vita, c'è il periodo che ti va bene e che ti va male. E vi predico già una cosa: l'Inter con l'Empoli non vincerà assolutamente. Beh, insomma, questa possiamo andarcela a giocare se vuoi, Guido. No, io sono, guardi, poi è difficile. Ma così come l'anno scorso ho detto a tanti vostri colleghi che con Inzaghi il Milan avrebbe superato il 10° posto e ho avuto ragione. E poi voglio dire una cosa a quel ragazzo che ha detto di Montolivo. Montolivo bisogna mettere un giocatore di fianco come Marchisi, un giocatore, perché il calcio si gioca in simbiosi, non si gioca da soli. Montolivo l'altra sera ha sbagliato 2 palle. E questo signore che sbaglia 10 palle a partita, e giocatori come Montolivo ne vorrei parecchi. Sì, Montolivo oggi è evidentemente un giocatore dotato di maggior tecnica che c'è nel centrocampo del Milan, almeno per fare quel ruolo lì. Poi è altrettanto evidente che ha dei limiti di mobilità, di condizione fisica, insomma, evidentemente non ha mai ripreso pienamente dall'infortunio prima dei mondiali del 2014, è stato molto sfortunato. Però è anche vero che quando non c'è stato Montolivo e quando poi è stato a disposizione, insomma, Mihajlovic alla fine ha anche corretto alcune delle sue convinzioni per trovargli un posto e per inserirlo nel meccanismo del Milan. Nicola dalla provincia di Chieti. Nicola. Salve, buonasera. Eccoci. Buona festa anche da me. Niente, come all'inizio hai detto che qualcuno avvistava Mourinho, ho avvistato il fantasma di Mourinho tramite un drone che è in questo momento a Milanello. È a Milanello il fantasma di Mourinho. Di Mourinho, esattamente, sta parlando con Berlusconi. Tutto poi quello che avete detto adesso sulla, diciamo, situazione, le frasi che ha detto Berlusconi porta su quella direzione. Niente, sono un tifoso milanista che volevo scherzare un pochettino. Cui piacerebbe tanto trovare Mourinho sulla panchina della Milan. Niente, la chiamavo anche per un'altra cosa, sì. Poi magari vedo accennato poc'anzi al discorso con il giapponese, là, il cinese, che è quello, come si chiama? Mr. B. Mr. B. Sì. Volevo sapere qualcosa in più su questa situazione qui, cosa c'è, se c'è ancora da crederci o meno, perché da tifosi siamo un pochettino... Per quello che sappiamo le cose vanno avanti, è altrettanto certo che per il mercato di gennaio di soldi non ne arriveranno, quindi dovrà fare Berlusconi, che come ci spiegava Monica Colombo, di investire soldi non ha voglia, e quindi insomma il Milan farà un mercato di low cost. A proposito di droni, speriamo che il drone di Nicola sia un po' più sicuro di quello di ieri sera. So, jetzt Marcel Hirscher. Vorsprung auf seinen Teamkollegen 1-0-8, dritter muss er werden, dann übernimmt er wieder die Führung. Das hat er gesagt. Da ist die Ding runter, Drohne! Die Drohne knallt da fast auf ihn hinunter. Questa è la telecronaca austriaca, credo. Saluto Alfredo Tradati, spalla tecnica di Eurosport. Ciao Alfredo. Sì, ciao, ciao. Sì, prima e probabilmente ultima prova del drone a riprendere una gara di sci, di Coppa del Mondo. Spero non l'ultima, Penso che sia stato un po' un esperimento avventato, con poca sperimentazione e con non poche polemiche che seguiranno. Però confido che lo strumento possa essere riutilizzato, magari non in maniera massiccia e con molte più precauzioni, questo senz'altro. Allora, per quelli che non lo sapessero, ieri slalom speciale in notturna a Madonna di Campiglio, seconda manche, sta scendendo Hirscher, che poi finirà secondo in classifica, e a un certo punto si vede schiantarsi il drone delle riprese televisive a non più di 50 centimetri da Hirscher, che ha rischiato non poco, Alfredo, perché stiamo parlando di un oggetto di una decina di chili, veniva giù da una ventina di metri. Ha rischiato tantissimo, sarebbe stata una tragedia probabilmente, o comunque un dramma veramente molto intenso. Ci sono stati dei misunderstanding probabilmente tra gli organizzatori, tra chi ha deciso, quindi la produzione, utilizzare il drone e su dove questo drone doveva stare. In realtà era stato richiesto dal direttore tecnico della Coppa del Mondo che il drone non stazionasse sulla linea di gara degli atleti, ma a lato. In realtà è cascato proprio sulla linea di gara, quindi penso che questo costituirà un elemento di discussione abbastanza importante. Sì, poi è da discutere se sia meno sicuro o più sicuro che non stia sopra la testa degli sciatori e stia magari sopra la testa di 15.000 spettatori, perché a bordo pista questo significa Madonna di Campiglio, o se semplicemente ci sono condizioni in cui evidentemente non si può utilizzare qualcosa che può essere pericoloso. Credo che poi il limite sia sempre quello del buon senso. Sì, penso di sì, e penso e ripeto che si sarebbe dovuto avere una fase di sperimentazione pratica più lunga e più efficace, in modo da arrivare preparati, ben conoscendo quali fossero le problematiche di gestione su un campo aperto come una pista di slalom, di uno strumento del genere, che è ovviamente della pericolosità alla presenza. Perché in Austria non usano i droni, ma usano, mi hanno detto, le sky camera, quelle che viaggiano sul cavo? Dicono costano di più, però sono più sicure. Sono sempre state utilizzate nei grandi eventi, in gare in Austria senz'altro, ma anche campionati mondiali, olimpiadi, si montano dei cavi, su questi cavi scorre la telecamera. Il drone ovviamente consente maggiore libertà di azione, diverse angolazioni di ripresa, quindi può movimentare dal punto di vista della regia la ripresa di una gara di sci. Però è vero che si ha a che fare con uno strumento che vola in condizioni atmosferiche che, anche se sono del tutto prevedibili e buone, può ovviamente avere delle sue problematiche. Ieri in effetti quello che è successo non è ancora stato detto ufficialmente, però è proprio un malfunzionamento del motore. Sì, qualcuno dovrebbe essersi dimenticato di caricare le batterie, di questo stiamo parlando. Spero di no. No, perché c'è anche questa ipotesi sul tavolo. Non credo questo, no. Posto che i droni, insomma, nello sport non sono una novità, li usa Sarri nel Napoli per filmare gli allenamenti. Credo che qualche mese fa sia successo qualcosa di simile alla Pennetta, durante un torneo sulle tribune si sia schiantato un drone. lei si era spaventata, si erano spaventati un po' tutti, insomma ci vuole un attimo di attenzione. 30 secondi invece per raccontarci se dobbiamo essere contenti o no di quello che hanno fatto gli italiani fin qui, compreso ieri sera al quarto posto di Razzoli. Allora, siamo contenti sicuramente di quello che ha fatto Razzoli ieri, ci ha fatto vedere che sul podio ci può andare e sono convinto che ci andrà nel corso di questa stagione. Siamo contenti di un Peter Phil che ha fatto tutto questo primo scorcio di stagione con grandissimo rendimento. Siamo un po' meno contenti del rendimento globale degli altri azzurri, in particolare anche dei più giovani come Roberto Nani, che dopo una un inizio abbastanza valido si è un po' bloccato sulla sua azione. Comunque ci sono degli elementi senz'altro nelle nostre retrovie che possono arrivare in zona primi 10 e anche puntare al podio. Non abbiamo fuori classe, questo è una realtà, però abbiamo delle buone squadre. Non abbiamo né Hirscher né Christoffensen, restando a quello che abbiamo visto ieri. Grazie Alfredo. Grazie a voi. Grazie ad Alfredo Tradatti, ci fermiamo qui, noi torniamo perché ci siamo anche domani, vigilia di Natale, 14.05, parleremo anche della Serie B, ma parleremo anche di tante altre cose. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Pietro Lacorte in regia, a domani, ciao. Un buon Natale, auguri a tutti, passate buone feste e mangiate poco.